Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Allora, come avete sentito un istante fa con Simone Spezia, taglio al minimo storico. Noi ci colleghiamo subito con Alessandro Merri da Francoforte. Buon pomeriggio innanzitutto. Sì, buon pomeriggio. Allora Alessandro, un minimo storico, quale significato, quali possibili effetti? Beh, intanto Draghi ancora una volta ha sorpreso tutti, come aveva fatto 2 anni fa appena insediato, proprio nel novembre del 2011, quando aveva subito tagliato i tassi di interesse. Lo ha rifatto questa volta quando ormai si era diffusa la convinzione sui mercati che in realtà le cose sarebbero rimaste ferme fino a dicembre, quando la BCE produrrà i suoi dati sull'inflazione. In realtà la pressione era molto forte sulla BCE, soprattutto dopo che l'ultimo dato dell'inflazione indicava che sta allo 0,7%, quindi meno della metà dell'obiettivo fissato dall'Eurotower. Le premesse quindi c'erano tutte, ma si pensava che la BCE avrebbe scelto una linea più attendista. Invece ancora una volta Draghi ha sorpreso, e sentiremo cosa dirà fra meno di mezz'ora in conferenza stampa per spiegare questo taglio dei tassi. La cosa interessante anche è che stasera Draghi parteciperà a un evento ad Amburgo dove presumibilmente cercherà di spiegare questa decisione anche al pubblico, all'opinione pubblica tedesca, che di solito è quella più riluttante a vedere un allentamento della politica monetaria, anche se va detto che la situazione è stagnante ovunque nell'Eurozona e anche in Germania non sta andando molto meglio. Comunque credo che il segnale importante sia stato da parte della BCE, che non ha intenzione di veder lasciare l'Eurozona scivolare in una situazione di deflazione come quella che al Giappone in pratica è costato 2 decenni di crescita zero. Grazie ad Alessandro Merli, lo ricordo in diretta da Francoforte. Ora parliamo del rapporto dell'eurodeputato Sondegar sull'impegno dei fondi europei. Ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi, il rapporto sul come sono stati gestiti i fondi nel dopo terremoto all'Aquila. Oggi arriva la Commissione Controllo e Bilancio del Parlamento. Erminia Mazzoni, deputata del PDL, è critica, dice inaccettabile che sia stato presentato prima in Italia, è solo un rapporto, dice la Mazzoni, tra l'altro privo delle conclusioni della commissione antifrode Olaf. Sentiamola. Io dico, se c'è qualcosa che non va, è giusto che venga rilevata, perché dobbiamo smetterla con questo uso improprio delle risorse europee, ma non ritengo che possiamo accettare, continuare ad accettare le speculazioni contro il nostro paese. Se io fossi andata nel paese del collega ad annunciare prima di aver fatto il mio compito istituzionale in Parlamento risultati di un'indagine che allo Stato è solo frutto di mie elucubrazioni, credo che l'Italia sarebbe stata messa ancora una volta al bando. È solo un rapporto fatto sul lavoro apprezzabilissimo di un collega, perché più si fa chiarezza meglio è per i cittadini, che viene aperto al dibattito e a seguito del dibattito si verificherà se è più vera la teoria del Sondergrad, ovvero le risposte della Commissione europea e quelle che spero arriveranno a breve dell'Olaf. Davvero si può arrivare a chiedere la restituzione di fondi già erogati? Questa della restituzione, se le può servire, è una previsione che abbiamo inserito per la prossima programmazione della spesa europea. Al momento invece i fondi europei possono essere congelati. Se c'è un fondo già erogato non si congela, si eventualmente verifica la irregolarità, il permanere dell'irregolarità, e a quel punto si sanziona lo Stato membro. Erminia Mazzoni intervistata da Laura Bettini. Bene, ora l'Europa credo continui anche sui campi da calcio, sicuramente negli spazi sportivi. Subito dopo noi torniamo domani alle 14. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.